Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ladies and gentlemen, your host for the 66th Annual Academy Awards, Whoopi Goldberg. Good evening. Good evening. Thank you. Welcome to Oscar 66. Quella che sentite è la voce della simpaticissima attrice Whoopi Goldberg, presentatrice d'eccezione della 66esima edizione degli Academy Awards. È il 21 marzo 1994 e ci troviamo al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles. Non è la prima volta che Destini Incrociati vi porta a una premiazione degli Oscar, il più prestigioso riconoscimento internazionale al cinema. Ma questa volta non vogliamo raccontarvi la storia di un attore in nomination che freme nell'attesa che si apra la fatidica busta, né quella del regista di turno o dell'autore di colonne sonore in attesa di sapere se la loro vita cambierà o meno quella notte. Questa volta, la storia che intendiamo raccontarvi ha uno scenario diverso da quello del teatro di posa di qualche grande produttore cinematografico. Il motivo per cui ci troviamo nella stupenda cornice della serata degli Oscar non va ricercato nelle prime file della platea, piuttosto in fondo, dove tra i molti curiosi che sono riusciti ad accaparrarsi un posto in quel tempio dello spettacolo, siede un uomo. A chi lo osservi con attenzione non sfuggono i tratti lievemente asiatici del suo volto e soprattutto la vistosa medaglia dell'Aquila, massimo riconoscimento degli scout, in bella mostra sul bavero del suo smoking. Non è un attore, né un regista. Non ha nulla a che vedere con il mondo del cinema. Figuratevi che è un pellettiere. Eppure la sua presenza lì ha un motivo ben preciso e le sue azioni si sono rivelate determinanti nella realizzazione di un grande e importantissimo progetto. Nonostante egli sia passato attraverso esperienze a dir poco terribili, abbia rischiato la vita più di un'occasione e abbia visto morire amici e parenti, il momento che sta vivendo alla premiazione degli Oscar è uno dei più emozionanti della sua vita. Tiene tra le sue la mano della moglie, che gli siede accanto e che come lui ha alle spalle una vita altrettanto difficile. Lasciamoli per un attimo in compagnia dei loro pensieri e proviamo a ripercorrere la vicenda che li ha portati fin lì. La colonna sonora è inconfondibile e la voce del tenente di polizia Alex Foley non lascia dubbi. Siamo a Beverly Hills. Stai ben attento quando la parcheggi. L'ultima volta la fiancata era piena di gravi. Dove si svolge la fortunata omonima serie di film con Eddie Murphy. Meravigliosa città statunitense della contea di Los Angeles, in California, Beverly Hills è un esclusivo centro di bellezza e di moda di rilevanza mondiale, attrazione turistica che ogni anno viene visitata da migliaia di persone. Luogo di residenza di moltissime star di Hollywood, da Sharon Stone a Sylvester Stallone, teatro delle vicende della notissima soap opera Beautiful, Beverly Hills è conosciuta come la zona più costosa dell'intero pianeta, in particolare Rodeo Drive, la sua via più famosa. Qui si trovano le boutique più esclusive del mondo, con firme prestigiose. Se si abbandona però la via principale, nelle strade laterali è possibile trovare anche negozi più normali, più abbordabili per tutte le tasche. È in una di queste stradine che si trova un delizioso negozio di pelletteria chiamato Handbag Studio. Due vetrine affacciate sulla via mostrano borse, valigie, portafogli realizzati a mano con pellami superbi da maestri pellettieri. Nel negozio la clientela viene accolta da un uomo sempre elegante in giacca e cravatta. È una persona molto particolare. Gli zigomi sporgenti e gli occhi a mandorla lo fanno assomigliare un po' all'attore Charles Bronson. Qualunque abito egli indossi, trasferisce sempre sul risvolto della giacca una spilla alla quale tiene moltissimo. La Eagle Scout, l'Aquila. È il massimo riconoscimento degli Scout, l'organizzazione giovanile fondata nel 1907 dal generale dell'esercito britannico Robert Baden-Powell. Il suo motto è rimasto famoso. Once an eagle, always an eagle. Una volta che sei un'aquila per sempre. Chi è quest'uomo tanto particolare che ora abita e lavora a Beverly Hills, evidentemente un ex scout, e che anni più avanti, la sera del 21 marzo 1994, siederà nella platea degli Oscar? Il suo nome è Leopold Pfeffenberg. Leopold Pfeffenberg. Il cognome rivela subito la sua origine. Leopold, che tutti chiamano Poldek, è un ebreo polacco nato a Cracovia nel 1913. Da ragazzo la sua passione è la ginnastica, tanto che si laurea alla Jagiellonian University di Cracovia e diventa insegnante in un liceo. Adora i ragazzi e crede fermamente nel detto «mens sana in corpore sano». Mentre osserva i suoi allievi correre intorno al campo di calcio della scuola, pensa a quale meraviglioso futuro li attende. Purtroppo Poldek non ha fatto i conti con la guerra e la follia del nazismo. Nel 1939 il suo paese si deve difendere dall'invasione della Germania e lui si arruola volontario. La guerra per Leopold Pfeffenberg dura poco. Viene ferito quasi subito durante un'imboscata sulle rive del fiume Sian, nei Carpazi, e si salva solo grazie al coraggio del suo sergente maggiore, che lo porta in spalla fino a un ospedale da campo. Mentre è ricoverato, le notizie della guerra lo raggiungono. È così che Poldek scopre cosa stanno facendo alla sua gente. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lelema. Le vicende del secondo conflitto mondiale sono ben note. La Polonia viene occupata dalla Germania e dall'Unione Sovietica. Le due superpotenze si spartiscono il paese e l'esercito polacco viene smembrato. Solo gli ufficiali, fatti tutti prigionieri, hanno la possibilità di scegliere se andare a est o ad ovest, cioè con i russi oppure con i nazisti. Contrariamente a quella che potrebbe apparire come una decisione sensata da parte di un ebreo, Leopold Pfeffenberg sceglie di andare in Germania. Non sa spiegarselo Poldek. È un sesto senso quello che lo porta a non fidarsi dei russi. La sua decisione si rivela quella giusta e gli salva la vita, come racconta lui stesso molti anni dopo in una intervista. Noi ufficiali dovevamo decidere se andare ad est oppure ad ovest. Io preferii andare con i tedeschi, anche se sono ebreo. Se non lo avessi fatto, sarei stato trucidato come tutti quei poveracci nella foresta di Katyn. Poldek fa riferimento al massacro di oltre 22.000 soldati e civili polacchi a opera della polizia segreta del Soviet di Stalin nella foresta di Katyn, a sud di Mosca. Una delle pagine più orrende nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Con altri suoi commilitoni si dirige invece verso ovest e viene internato nel campo di concentramento di Płaszów, nei pressi di Cracovia. Quello dove arriva di certo non è un bel posto, eppure noi sappiamo che si salva se anni dopo lo ritroviamo niente meno che a Beverly Hills, proprietario di un negozio di pelletterie. Quello che succede al nostro protagonista viene reso noto a tutto il mondo molti anni dopo, in maniera alquanto rocambolesca, e soprattutto grazie a un incontro incredibile che avviene nell'ottobre del 1980 e che cambia il destino suo e quello di parecchie altre persone. C'è un vento terribile che soffia quella mattina in Rodeo Drive. Sembra un phon caldo, e anche se ottobre ci saranno 40 gradi. Un turista sta passeggiando in questa strada che vede concentrate in poche centinaia di metri tutte le firme più esclusive della moda e del design. Ma lui non è uno che si fa incantare tanto facilmente da tutto quel lusso. Ha in mente di comprarsi una valigetta 24 ore, con il lavoro che fa gli è molto utile. Ma quelle che vede nei negozi davanti ai quali si ferma hanno prezzi davvero proibitivi. Ecco perché decide di svoltare in una stradina laterale. Sta pensando che forse lontano da Rodeo Drive riuscirà a trovare qualcosa di più abbordabile. Vidi quasi subito una vetrina di borse e valigie davvero bellissime. Esitavo, ma il proprietario aprì la porta e mi invitò ad entrare nel fresco della sua aria condizionata. Era un personaggio incredibile. Aveva gli occhi a mandorli zigomi alti. Una via di mezzo fra uno slavo e un cinese. Era elegantissimo. E sul bavero della sua giacca splendeva una medaglia delle Aquile Scout. L'uomo che è appena entrato nella pelletteria di Leopold Pfeffenberg è un australiano. È un po' più che un turista, meglio dire che si tratta di un cacciatore di idee. Il suo nome è Thomas Keneally. Thomas Keneally. Beverly Hills rappresenta per lui una fucina di stimoli che possono aiutarlo nel suo lavoro. Thomas è uno scrittore. In realtà avrebbe dovuto diventare un prete. A Sydney, dove è nato, c'è un fantastico collegio religioso, il St. Patrick's, che lui frequenta con grande profitto. I suoi vedrebbero di buon occhio un figlio prete e quindi lo indirizzano al seminario del collegio. Thomas è un bravo studente, neanche un bravo figlio, ma non sente la vocazione, o meglio, la sente, ma non per la religione. Non vuole essere un prete, lui vuole scrivere. Quando si trova di fronte a una pagina bianca, la sua fantasia inizia a galoppare e non si ferma più. È allora che incontra la vera felicità. Così lascia il seminario e per mantenersi insegna letteratura. Intanto scrive e manda i suoi racconti a tutti gli editori di cui conosce l'esistenza. E poi, un giorno, riceve un telegramma. Egregio signor Thomas Keneally, è con grande piacere che le comunichiamo la nostra decisione di pubblicare il racconto che ci ha inviato. Le accludiamo la bozza di contratto per sua visione. Attendiamo un suo gentile riscontro. Il nostro giovane scrittore australiano sta pranzando con i suoi quando arriva la notizia. È difficile per lui spiegare in quel preciso momento cosa prova. Aver lasciato il seminario lo ha fatto sentire in colpa, soprattutto con i genitori, ma anche con la comunità nella quale vive, con i professori. È stato un periodo difficile. Il rischio di cadere in depressione era nell'aria. Ma poi quel telegramma, quell'attimo che lui definisce molti anni dopo in un'intervista «il momento d'oro della mia vita», lo porta a rivedere tutta la sua esistenza. Ora è uno scrittore a tutti gli effetti. Ci sono autori capaci di scrivere storie di persone o di luoghi che non hanno mai visto né conosciuto. Basti pensare a Salgari, che ha raccontato con una vividezza unica le avventure di Sandokan, la tigre della Malesia, senza mai essere stato in quei luoghi. O a Bizet, che ha ambientato la storia della sua meravigliosa Carmen in Spagna, senza avervi mai messo piede. E ci sono autori che traggono spunto per le loro opere viaggiando. Keneally appartiene a quest'ultima categoria. Ascoltare il racconto di uno sconosciuto incontrato su un aereo, rubare uno spunto dalla conversazione tra due passeggeri in treno, lasciarsi incantare da un panorama per poi descriverlo sulla carta, sentirsi il mondo in tasca. Ecco la sua fonte di ispirazione. Ed ecco perché in quel ventoso mattino di ottobre del 1980 egli si trova in Rodeo Drive a Beverly Hills, un luogo dove la vita, vera o fittizia che sia, pulsa con fervore. Thomas Keneally, scrittore australiano in cerca di spunti per il suo lavoro, entra quindi nel negozio di Poldek Pfeffenberg, ebreo polacco e pellettiere di Beverly Hills. In realtà lo scrittore sta cercando una 24 ore abbastanza capiente da contenere tutti i fogli dei suoi appunti chilometrici. Ma si trova di fronte a un uomo davvero particolare che lo invita a entrare nel fresco del suo negozio e, vedendolo titubante, gli chiede perfino se ha paura che lui se lo mangi. Un bel tipo davvero. L'Aquila Scout si presenta, Leopold Page. Dopo alcune battute però si corregge. In realtà Page è il cognome che gli hanno affibbiato i funzionari addetti allo sbarco degli emigranti di Ellis Island a New York. Come aveva intuito Keneally, l'uomo è polacco. Il suo vero cognome è Pfefferberg, cioè montagna di pepe, e bisogna dire che gli sta bene, vista la sua esuberanza. I due passano presto a un tono più confidenziale, tanto che Pfefferberg prega Keneally di chiamarlo Poldek, diminutivo di Leopold, e Thomas diventa subito Tom. Keneally spiega al suo nuovo amico che sta cercando una valigia perché la sua si è sfondata col peso dei souvenir acquistati a Sorrento. Il negoziante gli chiede il motivo della sua visita nel sud Italia. Tom è stato a un film festival dove hanno presentato un lungometraggio tratto da un suo racconto. Quando Poldek sente la parola racconto e scopre che Keneally è uno scrittore, la sua espressione cambia improvvisamente. Io conosco la più bella storia che esista al mondo sull'umanità di un uomo verso gli altri uomini. Una storia meravigliosa. La racconto a tutti gli scrittori che entrano qui. Ma sono autori di sitcom, di soap opera oppure giornalisti. Ho ottenuto solo qualche articoletto, poca roba. Ma questa è una storia vera, da scrittore. È una storia giusta per te, Tom. Lo sento, io non mi sbaglio sulle persone. È la tua storia, te lo giuro. Tutti gli scrittori sentono prima o poi questa frase. Gente che non ha la più pallida idea di cosa significhi scrivere un libro è convinta che le vicende di un loro divertentissimo zio possano costituire di per sé stesse un bestseller mondiale. Pensano che basti solo trovare qualcuno che abbia il tempo che loro non hanno per mettere giù quella storia e il gioco è fatto. Si immaginano che lo scrittore al quale stanno proponendo la loro vicenda cadrà in ginocchio ringraziandoli di quel gioiello meraviglioso che gli stanno regalando. Anche a Thomas Keneally è capitato parecchie volte, ma questa è diversa. Non ha mai sentito parole così toccanti passare direttamente dall'anima alle labbra. Io e mia moglie Misha siamo stati salvati da un nazista. Eravamo ebrei imprigionati in un campo di concentramento con altre migliaia di ebrei. E lui ci ha salvati. Per questo, anche se era un nazista, per me lui è Gesù Cristo. Non ti sto dicendo che fosse un santo, era un gran bevitore, pensava sempre ai suoi affari e a come far soldi, eppure ci ha salvati. Per questo per me lui è Dio. Keneally è completamente rapito dalle parole di Pfefferberg. Mentre lo segue nel retrobottega, si rende conto di aver incontrato qualcuno di veramente speciale. Si capisce che è una persona che ha sofferto molto, ma che ha anche saputo far tesoro delle sue sofferenze. È un grande amante della vita, perché ne comprende il valore, avendo rischiato di perderla. Tom avverte con quella sensibilità tipica dello scrittore che la storia di Poldek è unica e incredibile, e ringrazia il cielo di essere entrato in quella pelletteria di Beverly Hills. Poldek presenta a Tom la moglie Misha, una deliziosa ed elegante signora seduta a un tavolo colmo di pelli, taglierini e barattoli di colla. Per la prima volta, lo scrittore australiano Thomas Keneally sente pronunciare dalle labbra di Leopold Pfefferberg un nome che non potrà mai più dimenticare: Oscar Schindler. Smile without a reason why. Love. As if you were a child, smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi nel retrobottega di un negozio di pellettiere a Beverly Hills. Qui il proprietario del negozio, Leopold Pfefferberg, ebreo polacco scampato all'Olocausto, sta parlando con Thomas Keneally, uno scrittore di novelle australiano che è capitato per caso nel suo negozio. Quando Pfefferberg scopre che Keneally è uno scrittore, decide di raccontargli una storia che ha davvero dell'incredibile: la vicenda di Oscar Schindler, un imprenditore nazista che durante la Seconda Guerra Mondiale salva lui, sua moglie e molti altri ebrei prigionieri in un campo di concentramento in Polonia. Abbiamo visto come Leopold Pfefferberg, o come tutti lo chiamano Poldek, decide di seguire i tedeschi a ovest e di non fidarsi dei russi che vanno verso est dopo la disfatta della Polonia. La sua scelta si rivela giusta, in quanto tutti gli ufficiali e i civili polacchi al seguito dei russi vengono trucidati nella foresta di Katyn. Seguiamolo quindi nel suo viaggio verso ovest, che non ha certo una bella destinazione: il campo di concentramento di Płaszów, nei sobborghi di Cracovia. Facile immaginare lo stato d'animo di Poldek quando giunge in questo luogo di morte e disperazione. Come tutti i suoi compagni di viaggio è spaventato, non sa cosa aspettarsi, ha fame, sete, freddo. Ma uno spiraglio di speranza si fa strada nella sua vita. In quello stesso campo egli sa che è stata fatta prigioniera anche la madre. La cerca, ma scopre che è stata prelevata da un uomo di affari molto in vista, un imprenditore iscritto al partito nazista, che possiede una fabbrica di oggetti smaltati proprio alle porte del campo di concentramento. La DEF, Deutsche Malevaren Fabrik. Poldek, con uno stratagemma e rischiando la vita, riesce ad andarla a trovare. Il loro incontro è straziante. Era piuttosto magra, ma nel complesso la trovai bene. Stava parlando con il suo datore di lavoro. Era un nazista, ma la trattava con rispetto. Le stava dicendo come avrebbe dovuto dipingere il suo appartamento privato. Mia madre è una decoratrice d'interni, e ad un certo punto lei disse: «Va bene, Oscar. Quel nome non l'avrei mai dimenticato più per tutta la mia vita. Era Oscar Schindler». Di origini cecoslovacche, Schindler si iscrive per motivi puramente utilitaristici al partito nazista tedesco e ne ottiene grandi vantaggi economici. Si trasferisce a Cracovia, dove riesce ad acquistare per una cifra irrisoria la fabbrica di pentolame e di munizioni vicina al campo di concentramento di Plaszów. Per lui, che è un uomo d'affari abituato a vedere tutto in termini di guadagno, avere manodopera gratuita, gli ebrei internati nel campo, è un affare d'oro. Arriva ad avere presto parecchie centinaia di operai. Ma poi qualcosa in lui cambia. Determinante è l'orrore a cui assiste quando avviene il rastrellamento nel ghetto di Cracovia. Migliaia di ebrei vengono strappati alle loro case per essere internati nei campi di concentramento e in centinaia muoiono nel tentativo di fuggire. Oskar Schindler comprende che nella sua posizione può fare molto per quella gente e inizia a difendere strenuamente i suoi operai. Afferma che sono indispensabili all'andamento della sua fabbrica, anche se in realtà sono persone del tutto incompetenti, che nella vita fanno tutt'altro, medici, ingegneri, insegnanti. Cerca in ogni modo di assumere più ebrei che può e arriva ad averne addirittura 1200, un numero enorme se si calcola la grandezza della fabbrica e soprattutto la produzione della sua azienda, che è decisamente scarsa. Ma nessuno gli mette i bastoni fra le ruote. Schindler è ricco e compra il silenzio dei comandanti tedeschi. Quando nell'ottobre del 1944 l'Armata Rossa arriva alle porte di Cracovia, i tedeschi passano alla risoluzione finale. Distruggono quanto possono dei campi di concentramento e uccidono tutti i prigionieri ebrei che riescono. Oskar Schindler teme per i suoi operai. Sa che potrebbero morire tutti. Così compra a caro prezzo il permesso di spostare la sua fabbrica da Plaszów a Brunlitz, in Cecoslovacchia, nel campo di Gross Rosen, dove hanno sede molte industrie belliche. È una mossa abile. Così facendo, sposta i suoi 1200 ebrei in una zona meno esposta. E infatti, il 14 febbraio del 45, quando le forze sovietiche entrano nel campo di Gross Rosen per liberarlo, gli operai di Schindler sono tutti vivi. Lo scrittore Thomas Keneally ha ascoltato il racconto di Poldek Pfefferberg senza fiatare. Non riuscivo a credere che una vicenda simile avesse potuto rimanere nascosta per così tanto tempo. Aveva ragione lui, era una storia bellissima, meravigliosa, e dovevo farla conoscere a tutto il mondo. Fu in quel momento, guardando negli occhi Poldek e sua moglie Misha, nel retrobottega della loro pelletteria, che compresi un fatto incredibile. Essere entrato in quel negozio di borse e valigie a Beverly Hills aveva cambiato per sempre la mia vita. Keneally decide quindi di scrivere la storia di Oskar Schindler. Nella documentazione che gli fornisce Poldek, egli legge che il pellettiere ebreo è il numero 173 della lista, mentre Misha, che egli conosce in fabbrica e sposa poi nel 41, è il numero 195. Si sente un po' inadeguato per scrivere la storia di Schindler. In fondo non è ebreo e non ha vissuto minimamente quel periodo storico. Lui è australiano, ma sa anche che non può sfuggire al suo destino, che gli ha fatto incontrare un uomo tanto determinato come Poldek Pfefferberg. È per questo che Thomas accetta di partire con lui. La loro meta è la Polonia, il campo di concentramento di Plaszów e la fabbrica di Schindler. Visitare di persona quei luoghi, respirare quelle atmosfere, permette ai due uomini di sperimentare un'emozione unica, rendere vivido il ricordo del sopravvissuto ebreo per poterlo trasmettere in tutta la sua pienezza allo scrittore australiano. Solo così il mondo potrà conoscere la storia incredibile e commovente di Oskar Schindler. Destini incrociati. La storia che vi racconta oggi Destini Incrociati vi fa compiere il giro del mondo e un grande balzo indietro nel tempo. Siamo partiti da Los Angeles, la notte degli Oscar del 1994, dove un uomo attende insieme alla moglie una grande notizia. È il pelettiere ebreo polacco Leopold Pfefferberg, scampato all'Olocausto insieme ad altri 1200 prigionieri, grazie alla generosità di un uomo unico, l'imprenditore nazista Oskar Schindler. La vicenda è avvenuta nel campo di concentramento di Płaszów, alle porte di Cracovia, in Polonia. Ma per motivi inspiegabili, questo atto di grande umanità non viene alla luce fino al 1980, quando uno scrittore australiano, Thomas Keneally, di passaggio a Beverly Hills, entra per puro caso nella pelletteria di Pfefferberg, il quale gli racconta questa vicenda incredibile. Lo scrittore, affascinato dal racconto e dalla personalità forte e volitiva di Pfefferberg, decide di scrivere la storia di Schindler e di come è riuscito a salvare gli operai della sua fabbrica di pentole e munizioni, dilapidando la sua fortuna personale. Ma Keneally è australiano, conosce ben poco del popolo ebraico e delle ingiustizie che ha subito durante la guerra. Ecco perché Poldek Pfefferberg lo porta con sé in un viaggio nei luoghi dell'Olocausto e della sofferenza ebraica. Thomas Keneally torna dalla Polonia più consapevole e pronto ad affrontare l'arduo compito di mettere nero su bianco una vicenda tanto toccante, avendo compreso in particolare il percorso di maturazione di Oskar Schindler. Ecco come giudica questo percorso Michael Berenbaum, presidente e CEO della Fondazione Shoah. He saved them. Li salvò non perché all'inizio egli fosse di buon cuore, nobile o con una morale, ma perché fu capace di sviluppare un attaccamento umano nei confronti di quella gente a un livello estremamente profondo. Schindler's Ark, poi ribattezzato Schindler's List, trova la luce nel 1982 e vince immediatamente il Man Booker Prize, massimo riconoscimento letterario per un'opera di fiction pubblicata in lingua inglese. Questo premio, che pure regala al libro di Keneally grande risonanza, gli crea anche non pochi problemi. Essendo un riconoscimento riservato di solito a opere di fiction, per un certo periodo l'opinione pubblica crede che la storia di Schindler sia solo frutto della fantasia dell'autore. Anche se l'equivoco viene poi chiarito, Poldek e Tom si convincono che la vicenda di Schindler non diventerà mai di dominio pubblico se non viene trasformata in un film. Mentre si trovano di nuovo là, dove tutto ha avuto origine, nel retrobottega del negozio di Poldek a Beverly Hills, i due oramai amici decidono di fare di più per quella che ormai è diventata la loro missione: far conoscere le gesta di Oskar Schindler al mondo intero. Poldek Pfefferberg non è un uomo che si arrende facilmente. Ne ha passate troppe per fermarsi di fronte alle difficoltà. Il caso vuole che una sua cliente, Lea Adler, una donna piacevolissima, abbia un figlio che lavora nel cinema. In realtà è qualcosa di più, è un grande regista. Ha diretto film quali Incontri ravvicinati del terzo tipo, I predatori dell'arca perduta, E.T., Il colore viola e tutta la saga di Indiana Jones. Il suo nome è Steven Spielberg. Poldek e Tom discutono a lungo. Non sarà che stanno puntando troppo in alto? In fondo, perché mai uno come Spielberg dovrebbe produrre un film sulla storia di uno sconosciuto benefattore nazista? Basterà il fatto che lo stesso Spielberg sia ebreo? Ci vuole del tempo, è vero. Ci vuole tempo e pazienza, anni addirittura. Ma infine Pfefferberg e Keneally riescono a incontrare Steven Spielberg e a convincerlo. Il film si farà. È il 1992 quando iniziano le riprese che vedono nei panni di Oskar Schindler il bravissimo e intenso Liam Neeson. Poldek e Tom, rispettivamente advisor e sceneggiatore della pellicola, seguono la produzione del film. Uno dei passi più toccanti è sicuramente la scena finale, in cui si racconta l'addio di Schindler ai suoi operai. La resa incondizionata della Germania è stata appena annunciata. A mezzanotte la guerra finirà ufficialmente. Io sono un membro del partito nazista. Sono un fabbricante di munizioni varie. Sfruttatore del lavoro di schiavi. Io sono un criminale. A mezzanotte voi sarete liberi e io braccato. Abbiamo scritto una lettera cercando di spiegare i fatti nel caso lei venisse arrestato. L'hanno firmata tutti gli operai. Grazie. È in ebraico. Un verso del Talmud dice: chiunque salva una vita, salva il mondo intero. Avrei potuto salvarne altri. Non lo so, se soltanto io avrei potuto salvarne altri. Oscar, ci sono 1100 persone che sono in vita grazie a lei. Le guardi? Se avessi avuto più denaro. Eccoci tornati al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles, la notte del 21 marzo 1994. Paul Dick Pfefferberg siede accanto alla moglie Misha. È davvero molto emozionato. Il film di Spielberg, Schindler's List, è candidato a ben 12 Oscar, tra i quali il più prestigioso, la miglior regia. Per quanto sia un validissimo professionista, per quanto abbia girato film di grandissimo successo, Spielberg non ha mai ricevuto l'ambita statuetta che lo consacrerebbe nello star system di Hollywood. È un mito del cinema mondiale a leggere le nomination. Il grandissimo Clint Eastwood. Well, the evening gets long about this time, and there's five anxious nominees out there, so I'm going to kind of cut to the chase. I'll have the names of the presenters. Jim Sheridan, in the name of the Father. Tutto questo non sarebbe mai potuto succedere senza un sopravvissuto chiamato Paul Dick Pfefferberg, che Oscar Schindler salvò da Auschwitz. Lui è l'uomo che ha convinto Thomas Keneally a scrivere il libro. E noi tutti gli dobbiamo tantissimo, perché ha portato la storia di Schindler a tutto il mondo. E ci fa sperare in un Oscar Schindler in tutte le nostre vite. Schindler's List si aggiudica quella sera ben 7 Oscar. E Spielberg vince l'award come miglior regia, il primo della sua carriera. È un trionfo per tutti, ma specialmente per Paul Dick e Tom. L'averci creduto, l'aver voluto con tutte le forze portare a conoscenza del mondo la storia incredibile di Schindler e dei suoi ebrei, ha dato dei frutti insperati, al di sopra di tutte le loro aspettative. L'incontro fortuito del pellettiere polacco e dello scrittore australiano, le loro conversazioni nel retrobottega di Beverly Hills e il lungo viaggio nei luoghi dell'Olocausto hanno significato tantissimo per l'umanità. A testimonianza di quanto importante sia stato questo incontro, rimane nella prima pagina del libro Schindler's Ark la dedica che Thomas Keneally fa a Paul Dick Pfefferberg. A colui che, con il suo zelo e la sua perseveranza, ha fatto sì che questo libro potesse essere scritto. A memoria perpetua di Oscar Schindler e di tutte le vite salvate dal suo amore per l'umanità. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.